praticamente c'è stata una chiusura totale da parte dell'azienda, dove ha risposto negativamente a tutte le nostre richieste, cioè a quella comunque di continuare con gli ammortizzatori sociali, ma niente, ci hanno detto che per loro non era pertinente, quindi assolutamente non ne volevamo parlare. E adesso comunque ci hanno dato un altro incontro il 23 e alle 16 sempre a Confindustria, in Confindustria, dove comunque noi abbiamo chiesto di fare uno sforzo di cercare di, insomma, riuscire a parlare quantomeno di ammortizzatori sociali, di una prospettiva, insomma, di qualcosa di questo genere. Vedremo cosa ci diranno in quella giornata. Ecco, l'azienda continua a rimanere ferma sulle 68 procedure di mobilità. Sì, assolutamente. Per loro sono 68 operai, quindi che, insomma, sono in esubero. Noi dal 2010 abbiamo perso 90 posti di lavoro, quindi, insomma, inizia ad essere una situazione un po' ciclica questa. Tra l'altro, tra le altre cose, la cosa più tragica è che comunque l'azienda ha dichiarato che per i prossimi 2-3 anni avranno ancora bisogno dell'utilizzo di altri ammortizzatori sociali, quindi non sarà una cosa che si fermerà qui. In sostanza, la sensazione che avete è che l'azienda stia disinvestendo su quello stabilimento? Sì, se non una dismissione totale, comunque, cioè, non so, non ce lo dicono ancora cosa hanno intenzione di fare, però quello che vediamo è che, insomma, la piega che sta prendendo è questa, ecco. Ecco, il settore dei motori a Bologna ha avuto un periodo di crisi, però altre aziende si sono riprese. Perché secondo voi la vostra no? Ah, questa purtroppo è una strategia della Yamaha, che sicuramente non è in crisi, ma per quanto riguarda il nostro stabilimento continua a fare tagli, dislocando le lavorazioni e, insomma, in altri paesi del mondo. Dove il costo del lavoro costa meno? È sicuramente minore, sì. Certo. Ecco, voi questa mattina siete in presidio a Calderara, giusto? Sì, siamo qui a Calderara, abbiamo incontrato il sindaco, che ci ha detto che comunque, il sindaco di Calderara, Irene Priolo, che ci ha detto che il 23 sarà comunque con noi, anche lei, in Confindustria. Niente, stiamo sensibilizzando un pochettino il territorio con dei volantini, con un volantino che abbiamo fatto, per cercare appunto di dare visibilità alla questione. Ecco, proseguirà anche la mobilitazione, farete scioperi? Noi stamattina siamo in sciopero, comunque sì, assolutamente metteremo in campo delle altre movimentazioni, adesso ci organizzeremo e studieremo bene come farlo insieme a tutta l'RSU per cercare appunto di colpire meglio possibile l'azienda, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda, come stamattina ad esempio, per dare visibilità alla situazione.